Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, puntata numero 433, nella quale parleremo di sceriffi, scellerati, marmotte, gorilla e legge del taglione. Speriamo di avervi incuriositi. Black boy, black boy, we ain't gonna lie to you. Black boy, we don't like the sight of you. Pull up on the side of you, window roll down, profile. Then we wonder why we see this side of you. Probably coming from the dope house. We could let you slide, but your tail light is blue. Out, we know you're hiding that Heidi Klum on you. Another drug charge, homie, it's back inside for you. And just in case the chase might is, so we got the trident, two pistols drew right at you. We'd be delighted to unload it in your back and walk up and lay that taser on the side of you. Fucked up, but what the fuck am I to do? I keep telling myself, keep doing like you're doing. No matter how many lives you ruin, it's for the red, white, and blue. Time to go find a new one and split his head right in two. No one's ever indicted you. Why? Cause you're a Dedichiamo boy, questa boy, puntata boy, a una marmotta senza nome, freddata con un colpo di pistola mentre attraversava un'autostrada da un poliziotto del Maryland negli Stati Uniti. Avete capito bene, non è stata investita da un'auto, quella temeraria marmotta, è stata presa di mira e uccisa da un agente di polizia. Lo ha mostrato al mondo un video girato da una donna che ha assistito alla scena dall'interno della sua auto. Il video mostra una marmotta che sta cercando di attraversare un'autostrada a più corsie. Le auto sono ferme, vogliono farla passare. La marmotta è un po' titubante, ma in qualche modo procede. Un poliziotto è davanti a lei e fa in modo che possa attraversare. La marmotta ha quasi completato il percorso, ce l'ha quasi fatta, è nell'ultima parte del tragitto, quasi in salvo. A quel punto però il poliziotto si inginocchia, prende la mira e le spara un colpo. La marmotta non muore, si contorce e procede in modo scomposto, forse spera ancora di salvarsi. Incredula lei, increduli noi che assistiamo alla scena. La persona che gira il video grida per l'orrore. Il poliziotto si inginocchia nuovamente e le spara addosso il secondo colpo, stavolta mortale. Secondo la dichiarazione dello sceriffo, il poliziotto avrebbe reagito in questo modo per salvaguardare la comunità, cioè è stato sacrificato l'animale per la sicurezza della popolazione. Il video ha fatto il giro del mondo, ha causato proteste per un gesto che non trova alcuna giustificazione. Anche la persona che ha girato il video era convinta che il poliziotto volesse salvare l'animale. Tantissimi sono stati messaggi rilasciati su Twitter di persone che si definiscono senza parole. Credono proprio che il poliziotto abbia agito per cattiveria. I seen the lights excite all the freaks. Stack mad chips, spread love with my peeps. Niggas wanna creep, gotta watch my back. Think the cognac and endo sack made me slack. I switches all that, cocks up the G's up. One false move gets Swiss cheesed up. Clip the tip, respect I demand it. Ora su questo episodio ci viene voglia di fare due considerazioni. La prima ha a che fare con le armi, perché negli Stati Uniti un numero impressionante di vite vengono perse a causa delle armi. In televisione vediamo solo la punta dell'iceberg, magari ci parlano delle stragi che avvengono nelle scuole, fanno scalpore perché muoiono dei bambini o delle persone molto giovani. Ma chi conosce la questione sa che c'è ben altro. Sulla rivista settimanale internazionale è pubblicata ogni settimana una rubrichetta intitolata Stati Uniti, il paese delle armi. Le sparatorie censite sono 20.277, intendiamo da gennaio a oggi. Le stragi censite, quindi si tratta di almeno 4 morti per volta, sono 89. I feriti da armi da fuoco sono 9.051, i morti da armi da fuoco sono 5.035, questo dall'inizio del 2018 e la fonte è la rivista internazionale numero 1255 dell'anno 25. Il secondo emendamento della Costituzione statunitense garantisce a ciascun cittadino americano il diritto di possedere un'arma e di usarla per difendere se stesso. E sappiamo che la lobby delle armi è stata una grande sostenitrice di Trump. E questo è un aspetto, cioè la facilità a usare le armi, la leggerezza con la quale vengono utilizzate da militari e civili. Ma c'è anche un altro aspetto inquietante dietro questa faccenda della marmotta sparata da un poliziotto statunitense, e si tratta di un fenomeno particolare che ha un nome, si chiama puppycide. La traduzione in italiano sarebbe cucciolicidio. A fine 2015 il Washington Post pubblicò un articolo intitolato più o meno così: «La polizia può sparare al tuo animale domestico senza motivo». Leggendolo si scopre che i cani, ma anche i gatti di famiglia negli Stati Uniti vengono uccisi dalla polizia in maniera piuttosto regolare. Non esiste un conteggio ufficiale, non esiste un database, il che non è particolarmente sorprendente dal momento che non esiste nemmeno un conteggio accurato dei neri o dei bianchi uccisi dalla polizia ogni anno. Quello che sta emergendo però è che i proprietari dei cani freddati dalla polizia senza motivo sono tutte persone traumatizzate. Si parla di intere famiglie furiose per l'uccisione dei loro animali domestici. E così questi privati si sono costituiti in associazioni o si sono appoggiati ad associazioni esistenti e si stanno auto-organizzando. Su Facebook potete facilmente trovare il Puppyside Database, una pagina che censisce e denuncia gli animali uccisi dalla polizia, con le foto e le storie di queste vittime dell'abuso di potere, della forza e delle armi. Una ricerca dell'American Society for the Prevention of Cruelty to Animals ha evidenziato che metà di tutte le sparatorie della polizia hanno come bersaglio i cani. A Buffalo, un canale di notizie locali ha condotto un'indagine approfondita in quella città, concludendo che la polizia ha ucciso 92 cani in un periodo di 3 anni, con un solo ufficiale responsabile di ben 26 di queste sparatorie. Un'indagine simile ad Atlanta ha trovato 100 morti in 2 anni. Si parla sempre di cani, ma spesso gli unici dati disponibili sono notizie pubblicate in modo sparso e non censite sistematicamente. Non tutte le volte le uccisioni naturalmente sono state gratuite, alcune sparatorie si verificano quando la polizia tenta anche di controllare dei cani che effettivamente si avventano contro di loro, oppure segnalati come pericolosi o che hanno attaccato qualcuno. Non mancano anche casi di ufficiali uccisi dai morsi dei cani, tuttavia nella maggior parte dei casi si tratta di incapacità manifesta di affrontare un cane e di capire i suoi messaggi corporei. L'articolo del Washington Post fa notare che comunque sparare non è l'unica soluzione in qualsiasi caso. Dopotutto, come gli agenti di polizia, anche i lavoratori delle poste incontrano regolarmente cani anche feroci nei loro giri quotidiani, ma i portatori di lettere non uccidono i cani, anche se migliaia di loro hanno riportato morsi di cani ogni anno. Il servizio postale mantiene infatti un database centralizzato che censisce tutti i morsi di cane, in netto contrasto con la mancanza di dati sulle uccisioni da parte della polizia statunitense, e offre ai suoi dipendenti una formazione speciale su come evitare i conflitti con i cani. Viene insegnato come prevenire un'aggressione, qual è il linguaggio del cane, i suoi segnali corporei, come calmare un cane, distrarlo e persino difenderlo se necessario. Un addestramento simile viene offerto anche agli addetti alla lettura dei contatori, e questo tipo di corsi ha ridotto in modo massiccio le denunce dei morsi subiti. Who shot you? Separate the weak from the obsolete. Hard to creep them Brooklyn streets. It's on, nigga. Buckle that bickering beef. I can hear the sweat trickling down your cheek. Your heartbeat sound like Sasquatch feet. Thundering, breaking the concrete. Finish it, stop when I foil the plot. In molti casi gli ufficiali di polizia semplicemente non hanno idea di come leggere il linguaggio del corpo di un cane. Inoltre, l'inclinazione degli ufficiali a prendere il comando e il controllo della situazione può indurli a inimicarsi i cani inutilmente. Quello che chiamano aggressione di solito è paura, dice un noto comportamentista statunitense. Gli ufficiali dovrebbero rendersi conto che sono lì solo per neutralizzare e non per controllare. E aggiunge che se hanno abbastanza soldi per militarizzare la polizia con armi così costose, dovrebbero avere anche abbastanza soldi per addestrarli a non uccidere. E questo naturalmente, secondo noi, dovrebbe valere sia per gli animali non umani, sia per gli individui umani. Occhio per occhio, dente per dente, questo è un principio che era già presente nel codice di Hammurabi in epoca babilonese, secondo il quale la pena per i vari reati deve essere identica al torto o al danno provocato. Ad esempio, la pena per l'omicidio deve essere la morte. Questo principio appare anche nella Bibbia, ma il Nuovo Testamento ha ribaltato questo principio, esortando a compiere verso gli altri solo azioni che si vorrebbero ricevere. Nel Vangelo, secondo Matteo, tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa premessa storica ci aiuta a inquadrare una delle questioni dirimenti tra i vari tipi di animalismo. Ci sono gli animalisti che, per affermare i diritti degli animali, sono pronti a calpestare i diritti umani, e quelli che invece vorrebbero non dover scegliere, quelli che, come noi, vorrebbero che i diritti si sommassero, si moltiplicassero, perché i mezzi non possono, non devono mai sconfessare il fine. Ma noi non volevamo adesso fare un pippone sulla non violenza, volevamo solo aiutare noi stessi e voi che ci ascoltate a inquadrare la seguente notizia. Il Kenya punta a rendere il bracconaggio un reato punibile con la pena di morte. Il ministro locale per il turismo e la fauna selvatica del Kenya, secondo quanto riferito nei giorni scorsi dall'agenzia cinese Xinhua, ha annunciato che il paese darà una corsia preferenziale alla legge che inasprisce la condanna per chi uccide elefanti, rinoceronti, leoni e altre specie animali. Attualmente, dice il ministro, è in vigore la legge sulla tutela della fauna selvatica emanata nel 2013 che prevede l'ergastolo o una multa da $200,000, ma non si è dimostrata un deterrente efficace per frenare il bracconaggio. Da qui la decisione di arrivare a una nuova legge più dura. Secondo i dati riferiti dallo stesso ministro, nel febbraio scorso il Kenya ha registrato nel 2017 l'uccisione di 60 elefanti e 9 rinoceronti, cifre alte ma tutto sommato in calo rispetto ai 96 elefanti e 14 rinoceronti vittime del bracconaggio nell'anno precedente. Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Sauce in my bag, swag. I see it, I want it, want it. I suck yellow, want it, want it. I dream it, I work hard, I grind till I own it, own it. I twirl on the middles, albino alligators, El Camino with a Cielo, sipping Cuervo and Ortiza. Restiamo in Africa per parlare della condizione precaria della sua fauna selvatica. Dall'ottimo blog Voci Globali, che vi consigliamo di visitare, abbiamo intercettato un articolo dal titolo piuttosto inquietante: Nel cuore dell'Africa, l'agonia di animali, parchi e riserve. L'articolo ci porta nel parco Virunga della Repubblica Democratica del Congo. È il parco a cui Leonardo DiCaprio ha dedicato il film Virunga, realizzato con Netflix. È il parco in cui ha vissuto Diane Fossey, la primatologa autrice del libro Gorilla nella nebbia, uccisa dai bracconieri che tentava di combattere. È il parco in cui il 9 aprile scorso 6 giovani rangers sono stati brutalmente uccisi, avevano tutti meno di 30 anni. Nel parco Virunga si continua quindi a morire. L'11 maggio scorso sono stati rapiti dei turisti a nord della città di Goma. I turisti sono poi stati liberati un paio di giorni dopo, ma l'azione ha avuto come conseguenza l'omicidio delle guardie accompagnatrici di tali turisti. A compiere questi atti di sangue e terrore sembrano essere i Mai Mai, un gruppo di ribelli locali armati, avvezzi ai saccheggi, alla razzia di bovini e al banditismo, un reperto delle recenti guerre che ci sono state in quell'area. La sopravvivenza del più antico parco dell'Africa, il Virunga, fondato dai belgi nel 1925 e considerato come una delle più sbalorditive meraviglie del pianeta, continua quindi a essere appesa a un filo. Avvicinandosi il momento delle elezioni nella Repubblica Democratica del Congo, crescono l'instabilità e la violenza, in una situazione che sembra sempre più simile a quella della guerra civile che in quel paese è stata vissuta tra il 1997 e il 2003, quando ci furono 5 milioni di morti e il Virunga subì la decimazione della sua fauna. Il parco ospita oggi circa 480 degli 880 gorilla di montagna rimasti al mondo e ospita anche la metà della biodiversità dell'Africa subsahariana, tra cui elefanti, leopardi, okapi, bufali, leoni, ed è costantemente preso di mira da bracconieri e milizie armate. Ma a minacciare questo paradiso concorrono anche la rapida crescita della popolazione locale e la povertà, che spingono sempre più persone a entrare all'interno dei confini del parco per cacciare, per abbattere alberi e fare dal legno carbone vegetale o cercare minerali da estrarre, perché la regione è famosa per la presenza del coltan. Come se questo non bastasse, il Virunga si è anche trovato ad affrontare l'avidità delle compagnie petrolifere, come ben dimostrato dall'omonimo documentario volto a denunciare il fenomeno, con la britannica Soco impegnata in uno sporco gioco volto a finanziare i guerriglieri e i bracconieri locali per estinguere i gorilla dalla riserva e porre così fine al principale freno allo sfruttamento del petrolio. Ma se per il Virunga la situazione resta difficile, non se la passano certo meglio gli altri parchi della Repubblica Democratica del Congo, che sono meno conosciuti, quindi anche più inclini a cadere nell'oblio di un'opinione pubblica distratta e sempre più anestetizzata dai problemi del mondo. L'articolo che abbiamo letto dall'ottimo blog Voci Globali enumera alcuni di questi parchi: il parco Kahuzi Biega, habitat degli ultimi 4.000 gorilla orientali di pianura; l'Okapi Wildlife Reserve, situata all'interno dell'Ituri Forest, centro culturale per gli ultimi uomini della foresta, i pigmei Mbuti ed Efe, e sede di uno degli animali più bizzarri del mondo, che è l'okapi, una specie di incrocio tra la zebra e la giraffa. Uno dei luoghi poi più incontaminati al mondo, che è il Salonga National Park, che con i suoi 36.000 km quadrati è grande quanto Veneto e Lazio messi insieme e rappresenta il più grande parco africano. Insomma, analizzando la disastrosa situazione ambientale della Repubblica Democratica del Congo, pare proprio che non ci siano parchi o riserve naturali la cui situazione non stia peggiorando. Le cause della distruzione di un patrimonio che appartiene a tutta l'umanità, qual era e in parte rimane l'eccezionale biodiversità del Congo, sono diverse e sono tutte legate a un modello di società che non è più sostenibile, dove il continuo aumento della popolazione e i consumi sfrenati dei paesi ricchi stanno rendendo sempre più insostenibile anche la miserabile vita dei congolesi e degli animali di quei territori. Someday I'm gonna be walking down the streets minding my own business and bam, I'm gonna be shot by some pig who's gonna swear that it was a mistake. I accept that as a part of my destiny. Si è mi destino morire en la calle come un perro. I'm and it says, "Now the works of the flesh." La selezione musicale di questa settimana è dedicata a brani che parlano di abuso di forze e abuso di armi. Tra una notizia e quell'altra abbiamo ascoltato Eminem, Stevie Wonder, anche un collettivo brasiliano e ritorno dei Living Color che parlano dell'abuso di armi. Focalizziamo la nostra attenzione su un pezzo di Jay-Z uscito nel dopo la violenza fatta da alcuni poliziotti su dei ragazzi di colore, un fatto che ha riscosso molto scalpore e tutti i giornali ne hanno parlato. La canzone dice: "No, non sono veleno, sono un ragazzo del ghetto con le mani in aria, disperato, non sparate, voglio solo fare una vita onesta." Ascoltiamo Jay-Z, è famoso anche nelle cronache mondane per essere il marito della Beyoncé, ma in questo caso lo ascoltiamo per il suo impegno sociale con questo spiritual. Buon ascolto. Pray your father's father wasn't touching his little daughter, creating transgenerational trauma, that shit'll haunt you. Pray your little cousin ain't fall from the place that you fall asleep, of course it's hard for you. Nigga ain't doze, I ain't washing the week. I ain't changed clothes to the black album, y'all rap about him. I wrestled in the streets till I tapped out him. Them niggas is WWE. Y'all can have that, I'm smack dab in a hurricane of emotions. Can't even raise my little daughter, my little Carter, we call her Blue cause it's sad that. How could I be a dad that? I never had that. Shattered in a million pieces with a glass at. I need a drink, shrink or something. I need an angelic voice to sing something. Bless my soul, extend your arms, I'm cold. Hold me for a half hour till I'm whole. Yeah. I am not poison, no, I am not poison. Just a boy from the hood that got my hands in the air in despair. Don't shoot, I just wanna do good. I yes, it is spiritual. No, I'm not poison. No, I'm not poison. Just don't talk it later. Spiritual, yes, it is spiritual. No, I'm not poison. No, I'm not poison. Just yeah. Sick of hiding in holes and behind hyperbole. This is the real me unfold. Gangster is love, I'm thugging, I'm hugging. This is tougher than any gun that I raised, any crack that I blazed, that was nothing. Peeling back the layers, uncovering scars that never healed, I never kept it this real. I acted out my life in stages with 10,000 people watching. Where's the little boy I knew? I must have forgot him. Stunting, of course we never grew. But we're alone now and I'm singing this song for you. Stunting, of course we never grew. But we're alone now and I'm singing this song for you. I am not poison, no, I am not poison. Just a boy from the hood that got my hands in the air in despair. Don't shoot, I just wanna do good. I am not poison, no, I am not poison. Just a boy from the hood that got my hands in the air in despair. Don't shoot, I just wanna do good. Spiritual, yes it is spiritual. No, I'm not poison. No, I'm not poison. Just don't talk it later. Ed è dedicata ai nostri fratelli, primati non umani, la ricetta di questa settimana a cura del tosco vegan chef Gabriele Palloni, che da anni conduce la rubrica di cucina Il Pasto Gentile, proponendoci l'adagio "Vivi e lascia vivere", oppure, se preferite, "Mangia e lascia vivere". Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Non è la prima volta che la ricetta della settimana è in qualche modo collegata ai gorilla, ma questa volta l'ispirazione per questo piatto arriva dalla loro dolcezza. Perché nonostante l'aspetto imponente, i gorilla sono animali relativamente pacifici e tranquilli. Dei piccoli bicchierini di cioccolato fondente farciti con una mousse di cocco e banane, i Gorilla Sweetness. Gli ingredienti per 4 persone sono 100 g di cioccolato fondente al 70%, una banana matura, un cucchiaio di scaglie di cocco, un cucchiaio di olio di cocco, un cucchiaino di rum bianco, della vaniglia, un cucchiaino di zucchero di fiori di cocco, e 8 cubetti di ghiaccio. buzzing in my head, head like a bomb doll. Listen to the beat, beat of the song. I'm buzzing in my head, now head like a bomb doll. Twist and check into the bucket like one big drive. Per prima cosa fate sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria. Una volta fuso, immergete un cubetto di ghiaccio all'interno. Per facilitare l'operazione, al momento di realizzare i cubetti, immergete uno stecchino all'interno in modo da ottenere una sorta di maniglia con la quale successivamente estrarre il cubetto. Adagiate i cubetti immersi nel cioccolato su un foglio di carta forno in modo da creare una base. Vedrete che rapidamente il cioccolato si solidificherà e sarà molto semplice togliere il cubetto di ghiaccio lasciando un guscio. A parte schiacciate la banana e mescolatela con l'olio e le scaglie di cocco, la vaniglia e il rum. Quindi lasciate riposare una mezz'ora in frigorifero. Una volta trascorso il tempo necessario, con l'aiuto di una sac à poche, farcite i gusci di cioccolato. Conservate in frigorifero e guarnite con qualche granello di zucchero integrale di fiori di cocco prima di servire. As we turn the mics up, turn that mic up, yeah, the beat is knocking, leave that mic up though, turn that shit the fuck up, what? Il filo rosso che collega gli abusi su fauna e umani è lungo decine di migliaia di chilometri e collega quasi tutti i paesi del mondo, in particolare quelli più poveri. Quindi dal Congo passiamo al Gambia, dove un delfino è stato trovato morto su una spiaggia di Gungur. Non si tratta della prima volta e la popolazione locale è allarmata. Tra i principali timori c'è l'inquinamento marino provocato da una fabbrica cinese di lavorazione del pesce. Il delfino è stato trovato una settimana dopo l'arresto di 6 giovani che avevano tentato di protestare contro le attività di Golden Lead, la fabbrica cinese. I ragazzi sono stati rilasciati su cauzione il 7 maggio, ma quella non è stata la fine del loro calvario. Il leader del gruppo infatti ha subito minacce, gli è stato chiesto di tacere sulle attività di Golden Lead. Il delfino poi è stata solo l'ultima tragica morte di animali marini registrata negli ultimi tempi. Secondo le associazioni impegnate sul territorio, la colpa sarebbe della Golden Lead, la fabbrica cinese che lavora la farina di pesce. L'impianto infatti è accusato di avere smaltito rifiuti tossici sospetti in mare attraverso le tubature, provocando diverse morie di pesci e mammiferi lungo la costa. Circa 2 mesi fa la Gambia National Environment Agency ha trascinato l'azienda cinese in tribunale per una violazione delle leggi ambientali del paese. L'azienda avrebbe dovuto installare un impianto di trattamento delle acque all'apertura, ma non lo aveva ancora fatto, e a pagarne le conseguenze sono gli animali marini e la popolazione, costretta a vedere avvelenare il mare e i suoi abitanti. Nuovamente è il caso di sottolineare che il destino dei cittadini umani e della fauna in Africa, come in qualsiasi altro luogo del mondo, sono intrecciati. I popoli umani e non umani sono allo stesso modo vittime di attività legali e illegali, di bracconieri, di multinazionali che fanno profitti privati su beni che dovrebbero essere comuni, risorse che dovrebbero contribuire al benessere di tutti. I seen the light excite all the freaks. Stack mad chips, spread love with my peeps. Niggas wanna creep, got to watch my back. Think the cognac and endo sack make me slack. I switch is all that, cocksucker G's up. One force move, get Swiss cheese up. Click to tech, respect, I demand it. Slip and break the 11th commandment. Thou shalt not fuck with raw sea popper. Feel 1,000 deaths when I drop ya. I feel for you, feel like Shaka Khan, I'm the Don. Pussy when I want Rolex on the arm. E siamo in chiusura. Vi saluta la nostra redazione al completo, che è composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 434 della nostra trasmissione è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.